ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi. Muoio di freddo. Mi aggrappo all'anta di ferro con entrambe le mani. Tiro col po' di forza che ancora mi resta. La sfascio, la sradico, faccio saltare i cardini, i ganci, il lucchetto, le viti. Non si muove niente. Ho le gambe che cedono ma non mollo la presa. Voglio andarmene a casa. Punto il piede sulla panca di legno e tiro l'anta dell'armadietto verso di me. Provo a staccarla dalle giunture che la uniscono alla cabina. Si allarga lo spazio, vedo all'interno ma non cambia niente. L'armadietto non si scompone. Il lucchetto rimane al suo posto, infilato nelle due curve di ferro che mi impediscono di uscire da qui. Tremo, ho la febbre, ho paura di farmi male. I ganci sono più forti dei muscoli e dei tendini delle mie braccia. Ho paura di spaccarmi una mano, di finire contro la parete opposta. Rimbalzo, mi schianto, picchio la testa, mi rompo qualche osso. Per vincere contro la meccanica e il ferro dovrei accanirmi di più, ma ho paura delle conseguenze. È ancora pieno di gente che si sta cambiando, mi vergogno. Chiamerebbero qualcuno del personale. Mollo il colpo, rinuncio. Che senso ha? Non so che ne sarà di me tra una settimana, non si è ancora capito perché sto sempre male. Sono bloccato qui dentro in canottiera, pantaloncini e infradito di gomma. L'aria condizionata mi ghiaccia la pelle esposta ai neon di questa palestra sottoterra in piazza Diaz di fianco al Duomo. Ho i brividi, di sera la febbre è sempre più alta. Ho appena fatto lezione e non posso tornarmene a casa. Non trovo più i miei vestiti, dove me li avete messi? Io li ho lasciati come faccio sempre, in uno degli armadietti dello spogliatoio, ma non mi ricordo più quale. Quando sono arrivato andava peggio del solito, pensavo solo a finire, reggere giusto il tempo della lezione. Pensavo agli esami del sangue che devo andare a ritirare domani mattina all'ambulatorio sotto casa. Non ho guardato il numero dell'armadietto, non vedevo l'ora di andarmene via. Interrompo la lezione 5 minuti prima. Faccio durare un po' di più il rilassamento finale per potermi sdraiare anch'io un attimo al buio, in silenzio. Porto l'attenzione all'addome. Alzo e abbasso il diaframma. Devo stare attento a non addormentarmi. Inspiro, espiro, di nuovo ancora. Guardo l'orologio del telefono. Passano quasi 10 minuti. Basta, è ora. Muovo le labbra, pronuncio la solita formula di chiusura. Ora riprendiamo a muovere le estremità del corpo, le dita delle mani, le dita dei piedi, i polsi, le caviglie. Oscilliamo lentamente la testa verso destra, verso sinistra. Ci riportiamo seduti, uniamo i palmi delle mani, intoniamo insieme un om per concludere la lezione. Fine, andata. Saluto giusto i primi davanti alla porta e mi allontano il più velocemente possibile. Esco dalla sala, vado nello spogliatoio. Dovrei essermi cambiato qua, subito davanti all'entrata. Apro i 3 armadietti con le ante socchiuse. No, non è roba mia. Provo dietro l'angolo. Non mi cambio quasi mai nello stesso punto. Mi metto sempre dove non c'è nessuno. Sono a disagio tra i discorsi dei maschi. Faccio il giro delle cabine, le controllo tutte. Non ci sono, sono spariti. Non è che me li hanno rubati. Il cellulare ce l'ho, lo porto sempre con me. Ma nell'armadietto ho lasciato il portafoglio e le chiavi di casa. Nel cappotto avevo pure le ultime pastiglie di tachipirina. Mi sono dimenticato di comprarle prima di entrare. Sto continuando a prenderle anche se non mi fanno niente. Poi sono mezzo nudo, è fine gennaio. Come faccio ad andarmene via? Mi siedo un momento in mezzo ai clienti che si rivestono. Ho bisogno di fermarmi, alleggerirmi da me, appoggiare la schiena. Però aspetta, e quelli col lucchetto? Riprovo. Controllo. Uso la torcia del cellulare. Illumino attraverso le fessure l'interno di ogni armadietto col lucchetto che trovo. 1, 2, 3, 4. Niente, nessuno di questi. Cambio zona. Torno nell'angolo nascosto dietro allo specchio. Ce n'è uno col lucchetto grigio di gomma e i numeri della combinazione che scorrono. Guardo dentro, è il mio. Lo illumino col fascio di luce del telefono. Riconosco il cuoio delle scarpe, lo zaino, le frange annodate della sciarpa. È tutto come l'ho lasciato. Vado su all'entrata dalla ragazza della reception. Mi reggo al bancone, aiuto le gambe a tenermi in piedi. Alzo gli angoli della bocca, allargo lo sguardo, cerco di avere una faccia normale. Ciao, scusa, sono l'istruttore di yoga, ho finito ora la lezione. Qualcuno deve aver chiuso per sbaglio col suo lucchetto l'armadietto in cui c'erano le mie cose. Ah, caspita, mi spiace. Mi fissa con un sorriso automatico, gli occhi spalancati, la coda alta, le sopracciglia spinte verso la fronte. È palese, non gliene frega niente. Si può fare qualcosa? Noi non possiamo aprire gli armadietti dei clienti, hanno l'obbligo di liberarli entro la chiusura della palestra, se non lo fanno a quel punto possiamo intervenire noi, non prima però, mi spiace. A che ora chiudete oggi? A mezzanotte. Sono le 9:40, ma non si può fare almeno un annuncio, magari il proprietario si sta allenando. No, mi spiace, non possiamo, però se vuoi puoi parlare con la responsabile, la trovi al bar. Porto in giro questi 66 chili che vorrebbero solo sdraiarsi, crollare. Vado al bar della palestra, stanno pulendo prima di chiudere. Quasi tutti i tavoli con le sedie appoggiate sopra a gambe all'aria. C'è solo una ragazza seduta, capelli arancioni, fondotinta in eccesso, ha sfilato i talloni dalle ballerine. Guarda un video sul telefonino, mangia della carne mezza cruda tagliata sottile. Ciao, scusa se ti disturbo. Anche lei uguale, ripete la stessa formula della collega. Non si può fare niente finché siamo aperti, mi dispiace. No, non abbiamo modo di fare annunci. Ripeto il via vai su e giù per le scale. Provo a chiedere ai tipi che si stanno allenando di fronte all'entrata, tutti uomini, quasi tutti con gli auricolari. Ci sono anche un paio di modelli, sicuramente non parlano italiano. Mi avvicino, faccio dei segni, muovendo le dita a chi sta ascoltando la musica, tocco una spalla. Non mi piace parlare con chi non conosco. Balbetto, anche se meno di un tempo. Esordire a parole con gli sconosciuti mi fa ancora paura. Lo evito il più possibile. Il ciao scusa mi esce facile, più o meno con tutti. Sul resto mi blocco. Scelgo le parole al momento, sulla base di quello che riesco a pronunciare. Per questo ami cantare, mi ha detto una volta un insegnante di Kundalini. È il tuo quinto chakra, quello della gola, hai bisogno di liberarlo. Non è carente, è sovreccitato, affollato. Chiedo alla gente che si sta allenando. No, non è il mio. No, I'm sorry. No, non ho chiuso con il lucchetto. Fingono, stanno mentendo. Resto da solo nello spogliatoio. Ho caldo, ho freddo, mi bruciano gli occhi. Torno su dalla ragazza della reception, sta parlando con una sua collega che prima non c'era. Ridono. Certo, come no, la prossima volta impara. Che cazzo, questi sono tutti uguali. Mi avvicino di colpo, le interrompo. I sorrisi gli si spengono in faccia. Ascolta, quella chiusa lì dentro è la mia roba, io tra l'altro non mi sento bene. Noi abbiamo le tenaglie, a mezzanotte se il proprietario non torna possiamo rompere i ganci, ma prima di quell'ora non possiamo aiutarti. La devo costringere. Come? Il corpo non mi lascia il tempo di fare niente, mi devo sedere, mi vorrei coprire. Scrivo a Marius, oggi era sul set, sarà sicuramente arrivato a casa da poco. Non lavora tutti i giorni, ma quando lo fa non finisce mai presto. Mi dispiace costringerlo a uscire di nuovo, ma non ho alternative. Oi, mi porti i vestiti, mi serve tutto, t-shirt, felpa, pantaloni, calze, sciarpa. Mi risponde in fretta, è il tempo di arrivare. Torno giù di nuovo e provo a forzare un'altra volta l'anta a mani nude. Non ho speranze, l'armadietto è troppo più forte di me. Rimango a fissarlo in mezzo a giovani e vecchi, tutti perplessi. Non ho cenato, inizio a sentire il calo di pressione, carenza di zuccheri. La febbre ogni giorno, la stanchezza continua, le lezioni a cui devo venire per forza. È tardi, ho freddo, quante volte l'ho detto, non ho la tachipirina, non so che malattia mi è venuta. Domani mattina devo andare a ritirare gli esami e ho paura. Voglio andarmene a casa. Possibile che nessuno qui possa fare niente? La fronte bagnata, la canotta verde che ho addosso inizia a macchiarsi di sudore. Davanti, sul petto e sulla pancia. Macchie scure, da verdi a nere, compongono delle forme, il mio personale arcipelago della vergogna. Torno all'entrata. La ragazza con la coda sta ancora ridendo. È l'orgoglio che nonostante tutto mi accende. Una possessione. Divento latina. Senti, mi apri sto cazzo di armadietto. Come, scusa? Ti ho chiesto prima di darmi una mano, ma fai finta di niente e continui a ridere con quest'altra stronza. Adesso me lo apri o lo sfondo a calci. Modera i toni, ma vai a fare in culo. Mi incastro a metà tra la frustrazione e il senso di colpa. Succede così ogni volta che perdo il controllo. Tu sei un coltello travestito da cucchiaio, mi ha detto una volta un ragazzo con cui sono uscito. Ah sì? Avrei detto il contrario. Mi allontano dal bancone, riscrivo a Marius. È in metro, gli manca poco. Mi siedo vicino alle scale ad aspettarlo. Evito di guardare in direzione del desk. Passa qualche minuto e lo vedo arrivare attraverso i vetri della porta scorrevole. Cammina veloce, butta la sigaretta. Tieni, guarda se c'è tutto. Mi allunga un sacchetto gigante di plastica con dentro i vestiti. Aspettami qua, gli dico, sforzandomi di sembrare in grado di tradurre in azione quello che annuncio. Torno giù, mi cambio, mangiamo qualcosa e poi torniamo a prendere la roba quando la palestra chiude, ok? Scendo di nuovo le scale, controllo nella busta di plastica. Manca la giacca. Nessun giubbotto, nulla di pesante con cui coprirmi. Fuori si gela, è venuto per niente. Ritorno su. Non posso prendermela con lui. Gli ho messo fretta, è stanco, si vede. E beh? Non c'è il giubbotto. Ah, cazzo. Dobbiamo aspettare per forza. Restiamo all'entrata in attesa che arrivi l'orario di chiusura. Almeno ora non sono più solo. Si avvicina uno dei ragazzi del personale. Alto, nero, la maglietta rossa della divisa di una taglia più piccola. Mi dice che prova lui a fare un giro. Chiede ai clienti rimasti. Ormai c'è giusto qualcuno nella sauna e nella zona relax, dice. Ci si mette poco. Io resto con Marius ad aspettare. È meglio se rimango seduto. Il tizio della palestra ritorna. Ha in mano le tenaglie. Apriamolo, dice, tanto ormai sono quasi le 11:30. Scendiamo nello spogliatoio, glielo indico, è quello. Con un paio di colpi fa saltare i ganci, il lucchetto cade per terra. Lo apriamo, ci sono solo le mie cose, tutte, non manca niente, e nessuno ha messo dentro dell'altro. Perché l'hanno blindato e se ne sono andati? L'hanno fatto apposta? È stato uno scherzo, un dispetto, una punizione? Mi rivesto, usciamo. Passando di fianco al bancone non saluto nessuno. Con questo posto io ho chiuso. La nonna mi vuole bene, ma certe volte di sera prima di andare a dormire si mette uno strofinaccio in testa e si nasconde nelle stanze per farmi paura. Sbuca fuori da camera sua, fa la voce roca come quella di Isabel, la donna con la maschera di cuoio che vive nascosta in soffitta nella telenovela che guardiamo su Rete 4 a casa della Malerba. Miranda! Miranda! Isabel è la sorella gemella di Manuela, la protagonista con i capelli biondi lunghissimi come Raperonzolo. Ha il viso coperto da una maschera. Un incidente è rimasta sfigurata. «Miranda! Miranda!» dice così quando chiama sua madre, la governante di Manuela. Di sera a volte io incontro questa sagoma senza faccia nella penombra della camera dei nonni. L'unica luce è quella arancione della Madonnina con l'aureola di stelle che la nonna tiene sul suo comodino. È piccola, illumina poco ma fa tantissime ombre. Mi fermo davanti alla porta. Sono scalzo sulle piastrelle gelate del corridoio. «Nonna, sei tu?» «Miranda! Miranda!» ripete un'altra volta la voce soffocata. Sposto il biberon di lato, lascio libero l'angolo della bocca per dire di nuovo sempre la stessa cosa. «Nonna, sei tu?» Mi viene da piangere. «Nonna, dove sei?» Allora lei viene fuori. Si era nascosta dietro alla porta, tra l'armadio e la cassettiera in cui tiene le lenzuola che io l'aiuto a piegare. Si scopre la testa e ride. «Sono io, Shè!» mi dice. Dai 3 ai 9 anni vivo coi nonni, altro condominio popolare, via Verbene 11. 8 piani, noi a pian terreno, o al piano rialzato, come dice la nonna. Sotto di noi le cantine. Io, la nonna Lidia, il nonno Biagio e i fratelli più piccoli di mia madre, zio Franco e zia Alessandra, che io chiamo Tata, la Tata. A casa dei nonni si parla in dialetto. La nonna è di Aversa, vicino Caserta, il nonno di Mugnano di Napoli. Sono a Milano dagli anni 60, ma parlano solo in napoletano, soprattutto a casa, con me e gli zii. Certe parole non sanno proprio dirle in italiano. La nonna non ha imparato neanche a leggere bene. Lo sa fare solo ad alta voce, pianissimo, tenendo il segno col dito. Quando deve scrivere qualcosa o firmare ci mette un sacco di tempo. Lascia sul foglio dei segni tutti allungati e tremolanti, come se avesse scritto senza guardare. «No, creatura, non parla napoletano, però lo capisce, è vero?» «Sì, io capisco tutto. Qualche frase in realtà la so pure dire in dialetto. Però se mi scappa quando sono con papà o con gli altri nonni, loro si arrabbiano. Non devi parlare in napoletano, non sei mica terrone.» La nonna Lidia non lavora, sta a casa. I soldi glieli dà il nonno per fare la spesa. Lei gli dice sempre che ha speso di più di quello che ha speso davvero. Così può tenersi qualcosa per sé. Può comprarsi un vestito al mercato del sabato, prendere i gratta e vinci e giocarsi i numeri al bar tabaccheria dietro casa, in via degli Oleandri. Passo tanto tempo in cucina con lei. La guardo mentre prepara da mangiare. Qualche volta l'aiuto a mischiare gli impasti o a sgusciare i legumi o a impanare le cotolette. La nonna spesso cucina i piatti di Napoli, o almeno lei mi dice che sono ricette napoletane, pizza e focacce, lasagne, pasta e fagioli e pasta con le patate, i peperoni alla griglia con la pelle nera bruciata. Il profumo si sente giù in tutto il cortile. Prepara il tortano con dentro lo strutto che lei tiene in certi barattoli grossi che chiama boccacci. Quando arrivano le feste fa la pastiera e gli struffoli pieni di miele e confetti colorati durissimi che spaccano i denti. Se deve friggere si barrica in cucina e io devo andarmene nelle altre stanze chiudendo bene tutte le porte una dopo l'altra, cucina, corridoio, cameretta, per non far uscire l'odore. Vattene là che poi puzzi e merda. La nonna per merenda mi prepara il panino con l'olio, il sale e le olive tagliate a fettine, oppure col burro e lo zucchero. Io vado pazzo per il burro, lo voglio dappertutto, è una fissazione. Col burro diventa tutto più buono, lo voglio nella pasta col sugo, nel riso, nel minestrone, nelle verdure, sul pane. Voglio che col burro mi cucinino la carne trita e le bistecche, il primo, il secondo e il contorno. Pane, burro e marmellata, pane, burro e zucchero, pane, burro e Nutella, pane, burro e liebig, a Natale pane, burro e salmone o pane, burro e parmigiano. Siccome il nonno non vuole, la nonna me lo mette di nascosto nei piatti, lo infila sotto alla svelta e lo copre col cibo. Shh, non farti vedere dal nonno. Per una noce di burro io rischio la pelle. Sono disposto a tutto. Sfido le urla e le botte. Difendo la mia ossessione, non mollo. È iniziato tutto col burro. La nonna a casa è sempre attentissima, controlla tutto quello che succede nel nostro palazzo. Quando arriva qualcuno, lei va subito allo spioncino per vedere chi è. Siccome è bassa, si deve alzare sulle punte. Se non capisce, continua a guardare, poi si stacca dalla porta e fa le facce. Ma, boh, chi lo sa? In cucina tutte le mattine lei beve il caffè con le sue amiche, mette la moca sul fuoco mentre parlano delle vicine, dei loro mariti e dei figli. Vuoi un goccio di latte? Quanto zucchero ti metto? Non la pozzo proprio per... Sì, le hanno portato via i figli e gli assistenti sociali. No, no, la madre è morta. Vittò, che t'ha già dicere? Il padre è stato arrestato già 3-4 volte. Sì, sì, è quella signora del quarto piano, hai presente? Fa schifo, è navaiassa, mi butta le schifezze a basce da un coppo balcone. A Rozzano c'è gente di merda, maledetto mio marito che mi ci ha portato. Me ne volesse tornare a Napoli. La nonna Lidia fa sempre i mestieri, passa l'aspirapolvere e lava per terra con lo straccio inzuppato d'alcol. Lo chiama spirito o spirito. L'odore è fortissimo, mi entra nella testa, ma lei lo ama. Dice che lo spirito disinfetta, ammazza i virus, i batteri e le malattie. Ci protegge, ci tiene al sicuro. Oppure si mette a stirare mentre guarda C'eravamo tanto amati con Luca Barbareschi o Ok, il prezzo è giusto con i Vazzanicchi. Qualche volta mentre pulisce la nonna accende la musica. Mette le cassette nello stereo portatile con le casse che gracchiano e canta le canzoni d'amore in napoletano. Pronto, sì tu, non attacca, fammi parlare. Se guardo la televisione da solo senza di lei... Aspetta, pronto, sì tu, non attacca, fammi parlare. Se guardo la televisione da solo senza di lei, guardo i cartoni. I miei preferiti sono quelli con le bambine che si trasformano. Immagino di avere anch'io una bacchetta o uno specchio magico, un ciondolo, un braccialetto, una formula da recitare... Qualche volta me li faccio proprio, li disegno, li coloro e poi li ritaglio. Anch'io sono come loro. Sono Magica Amy, sono Crimi, sono Gigi, sono tutte le maghette coi capelli colorati che vedo in TV. Giro per casa e lancio incantesimi. Ho un nuovo potere, lo specchietto fatato mi ha trasformato. Sono una strega, una guerriera, la paladina della giustizia. Arrivo da un altro pianeta, sono in missione, difendo la mia famiglia, aiuto chiunque abbia bisogno di me. Sulla testa ho tutta una galassia infinita di astri brillanti, con la bacchetta traccio intorno a me i cerchi luminosi che mi proteggono e mi renderanno invincibile. Nessuno può farmi del male, ho gli extraterrestri, gli dei, gli amuleti e i segreti della magia dalla mia parte. Gira e spera, il desiderio si avvera. La casa è di via Verbene a 3 camere da letto, quella dei nonni più grande e le 2 più piccole degli zii. Io dormo con la tata nella stanza in cui dormiva mia mamma. Tra le 3 camere c'è il corridoio con lo sgabuzzino. A volte la tata mi ci chiude dentro al buio, per scherzo. Il nonno nello sgabuzzino tiene gli attrezzi, le viti, i chiodi e il martello, ma anche il lucido per le scarpe e le stringhe di ricambio. Il fondo è coperto da una tenda a fiori che nasconde le mensole su cui stanno le scorte di acqua, olio e detersivi che il nonno compra quando va a far la spesa. Sulla porta c'è un grande specchio che la occupa tutta. Lo specchio che ricordo io non è lo stesso di sempre, l'hanno dovuto cambiare. Quello vecchio si è rotto. Sono stato io, quando avevo 2 anni. L'ho fatto venire giù. A quello nuovo non mi posso avvicinare troppo. Me lo rompi ancora, mi urla la nonna. Altri 7 anni di disgrazia. È colpa mia se le cose vanno male. È successo tutto perché ho rotto lo specchio. Il nonno Biagio vive con noi, ma è come se non esistesse. Con me si fa vivo solo quando deve sgridarmi. Quando non è in fabbrica a lavorare, lui sta sempre in sala, seduto sul divano davanti alla televisione. Spesso lo sento parlare da solo. A tavola il mio posto è vicino al suo, così può controllare se mangio, se bevo, troppo, troppo poco, se uso male le posate, se spreco i tovaglioli di carta, se rovino il pane. A me piace la mollica, mangerei solo quella, ma il nonno mi costringe a mangiare tutto, anche la crosta nera bruciata. La mando giù come se fosse una medicina. La nonna e gli zii mi difendono. Papà, lascialo stare, lascialo in pace. Ma il nonno, se faccio qualcosa che non gli va bene, mi guarda senza dire niente. Mi guarda e basta. Deve essere sufficiente lo sguardo o un cenno. Rispondere al comando come gli animali. A tavola non si può parlare quando c'è lui. State zit. Quando si mangia si combatte ca' a mort. Si deve sentire solo lui che succhia il brodo dal cucchiaio, che si toglie con la lingua le cose dai denti, che soffoca i rutti. Le cose che danno fastidio agli altri non contano. Col nonno non parlo, non esco, non gioco. Sento solo le sue bestemmie contro i santi, i morti e la Madonna. Sento solo le parolacce quando litiga con la nonna Lidia e sembra che la voglia picchiare, o quando sgrida la tata per cose che non so, che non capisco. Una volta le tira uno schiaffo e la zia si mette a piangere con la fronte appoggiata al muro, di fianco alla finestra della cameretta, le braccia piegate a coprirsi la faccia, i suoi capelli che si muovono per i singhiozzi, il golfino giallo a maniche corte, bambina punita. Paralizzato, fermo davanti al dolore degli altri. È lì che ho iniziato a non saper consolare la gente che piange. Una volta il nonno picchia anche me. Io, che non esco mai, che non voglio mai giocare con i bambini del nostro cortile, un pomeriggio, tornato da scuola, faccio quello che non ho mai fatto. Vado fuori a giocare con un mio nuovo compagno di classe, Fabio Serafini. Biondo, occhi azzurri, ha per cognome il nome degli angeli. A me piace, vorrei essere il suo fidanzato. Mi ha invitato lui a uscire dopo la scuola. Fabio è un pazzo, non ha paura di niente. Dai, vieni, andiamo ad arrampicarci sui tubi di ferro nel parchetto in mezzo al parcheggio. Vado, ci vado, esco con Fabio. Ci appendiamo, saltiamo. Fabio mi insegna a fare i giri su me stesso, a stare appeso con una mano sola. Siamo dei ninja, una coppia di agenti speciali. Mi dimentico dell'orario, perdo la cognizione del tempo. All'improvviso il nonno mi tira giù dai tubi e mi dà una manata in viso, lì davanti a Fabio, una sberla forte che spegne tutto. Non sono abituato alle sberle sul viso. La nonna Lidia al massimo mi strattona prendendomi per il braccio, mi tira i capelli. Il nonno voleva che tornassi alle 5:30 e sono le 5:35. Se dico una cosa deve essere quella. La nonna Lidia non c'è, deve essere da qualche sua amica. Non si è messa in mezzo, non mi ha protetto, è successo quello che succederebbe spesso se non ci fosse lei a ingannare il nonno, a tenerlo occupato, a distrarlo da quello che faccio e non potrei fare. Orso, orco, mazzabubù, se la gente sa che c'è lui a casa nostra non si avvicina. Neanche citofona, le amiche della nonna lo dicono sempre. Quando c'è il nonno, io devo stare attento a come mi muovo. I 4 locali di casa sua diventano pieni di cose che non posso fare, di posti in cui non posso andare. Quando c'è lui in giro, lo spazio a disposizione si rimpicciolisce, devo muovermi seguendo traiettorie precise, autorizzate. Non stare in camera da letto, esci subito, vattene di là a giocare. Il nonno Biagio cammina lento per casa e controlla tutto quello che succede. Ci spia. Apre le porte all'improvviso. Viene a vedere cosa facciamo io, la nonna e gli zii. Viene a vedere se siamo al telefono, se teniamo troppo le luci accese, se abbiamo l'acqua calda aperta da troppo tempo. Mezze frasi in dialetto urlate forte. Il nonno ringhia che devo andarmene in cameretta, l'unico posto in cui non do fastidio. «È fatto così», mi dice la nonna. «Lascialo stare». Il nonno Biagio torna a casa dal lavoro tutti i giorni alle 5. Non parla. Vorrei che le 5 non arrivassero mai. Torna e mangia una mela, gialla, sempre quella. La mette sotto l'acqua del lavandino della cucina per farla raffreddare, poi la taglia col coltello e la mangia in piedi, appoggiato al tavolo di marmo finto. Si chiude in sala fino all'ora di cena. Lì si addormenta al buio, con la TV accesa. La testa rovesciata all'indietro, la bocca aperta, il naso che punta al soffitto è una pinna, un becco di uccello. Russa fortissimo. Lo schermo proietta le ombre degli oggetti in tutta la stanza e quella del nonno si allunga dietro di lui, sulla parete e sul termosifone. Il nonno è un'ombra gigante. Vorrei dormisse per sempre. 3 febbraio, il giorno in cui devo andare a ritirare i nuovi esami. La febbre c'è ancora, non è passata. Infilo il modulo dell'ambulatorio nella cartelletta di plastica blu trasparente, la stessa che fino al mese scorso usavo per le dispense dell'università. Scrivo al mio medico. Ciao, stamattina ritiro. Tu oggi sei in studio? Sì, sto andando adesso. Fino a che ora ti trovo? 12:30, ma comunque ti aspetto. Ok, dovrei farcela. Dopo un'ora gli scrivo di nuovo. Non mi hanno ridato tutto. All'accettazione dell'ambulatorio mi hanno lasciato in sospeso. Scusi, ma non l'hanno chiamata? No, avrebbero dovuto. La responsabile si è allontanata dietro il bancone, ha fatto una telefonata. Le do questa parte generica dell'emocromo, ha detto. Per il resto a breve la contatteranno. Non ha specificato cosa non poteva consegnarmi né perché avrei dovuto aspettare che qualcuno, chi, mi chiamasse. Movimenti, sguardi, parole, tutto gestito con cura per evitare che il paziente si ritrovi da solo a ricevere la notizia. Ok, tienimi aggiornato, dice il mio medico. Aspetto che il telefono squilli. Vorrei lo facesse subito, adesso, ora. Vorrei non squillasse mai più. E se non chiamano? Quanto devo aspettare? Quando si ha paura davvero, la paura anestetizza anche se stessa. Non si sente più niente. Era la quinta puntata di Febbre di Jonathan Bazzi, letta da Valentina Carnelutti per Ad Alta Voce, che è a cura di Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare su adaltavoce.rai.it. L'ultimo ascolto da Thanks for the Dance, l'album postumo di Leonard Cohen che ci ha accompagnato questo pomeriggio, l'ultimo brano It's Torn. I see when windows that open so wide, there's nothing beyond them and no one inside. You can't. kick off your sandal and shake out your hair. The salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet. The river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Pieces all scattered and lost, the lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.